La voy. Tatán. Insomma. No, praticamente no. Oh, per carità. Ma nati che alla fine tenuta con tu e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. È un vero e proprio sasso in uno stagno quello lanciato dal procuratore aggiunto di Trani Michele Ruggero, che potrebbe avere importanti ripercussioni nazionali. È partito un siluro con 62 avvisi di fine indagine contro il sistema bancario italiano. Per concorso in usura bancaria sono indagati i vertici dei principali istituti di credito. Di usura bancaria continuata e aggravata ai danni di alcuni imprenditori del Barese. BNL, Unicredit, Monte dei Paschi, Popolare di Bari. Ma l'aspetto più importante e delicato dell'inchiesta riguarda il concorso morale nel reato di usura da parte degli ex vertici della Banca d'Italia. E avete sentito qualche collega di qualche altra emittente ha definito questa notizia un vero e proprio siluro, questo provvedimento della Procura di Trani, della quale sentiamo parlare da molto tempo per la sua intensa attività. È una procura che da anni fa parlare di sé per le inchieste condotte su temi legati al mondo finanziario. Quella più nota è quella sull'operato delle agenzie di rating, ma non dimentichiamo anche quella sulla manipolazione dell'Euribor. Gli ultimi provvedimenti presi, invece, che sono anche particolarmente clamorosi, riguardano un'indagine per usura bancaria che ha portato alla messa sotto inchiesta di personalità altissime del mondo bancario e non solo. Per concorso in usura bancaria sono finiti infatti sotto inchiesta gli alti vertici di BNL, Unicredit, Monte dei Paschi, Banca Popolare di Bari, in tutto 62 persone, e anche ex dirigenti di Banca Italia che oggi fanno altro, Anna Maria Tarantola e Fabrizio Saccomanni. In pratica, in seguito alla denuncia di alcuni imprenditori della provincia di Bari, a un gruppo di banche viene contestato il reato, lo ribadiamo, di usura bancaria continuata ed aggravata su finanziamenti concessi a questi imprenditori, prevalentemente sotto forma di anticipazioni su conto corrente. Allora, oggi a Cuore Denari iniziamo da qui. 800 24 00 24. Il numero verde da comporre se vi è capitato di chiedere un finanziamento alla banca e di aver avuto la sensazione che gli oneri applicati al prestito fossero un po' troppo alti, un po' cari. Ecco perché oggi vi spiegheremo quali sono i meccanismi che disciplinano gli interessi su affidamenti e sconfinamenti e che parametri regolano le soglie di usura. Cara mia Nicoletta, la questione di oggi, quella di denari, è molto spinosa. E invece dal punto di vista del cuore, che cosa offriamo ai nostri ascoltatori? Parleremo di testimonianze positive di un'altra Italia che ci piace, perché se tu parli di usura insieme ai tuoi esperti e quindi di interesse eccessivo richiesto su un prestito, nella parte di cuore, nella seconda parte della trasmissione, cambiamo radicalmente argomento e prospettiva. Parliamo di chi dona periodicamente, gratuitamente, volontariamente, una parte di sé significativa ed importante, assolutamente vitale ed essenziale per metterla a disposizione di chi ne ha bisogno. Parliamo dei donatori abituali di sangue, che nell'anonimato garantiscono quasi 9.000 eventi trasfusionali ogni giorno, ed è proprio per ringraziare questi uomini e queste donne che l'OMS celebra domani, sabato 14 giugno, la giornata mondiale del donatore di sangue. Quindi se siete donatori, chiamate il nostro numero verde, regalateci la vostra esperienza, mettetela come si dice a disposizione di chi ancora per diverse ragioni, per paure, pregiudizie, per pigrizia non si sente pronto a fare questo piccolo gesto che può donare invece la vita, un gesto che, come recitava uno slogan di una fortunata campagna, fa grande chi lo dona e aiuta chi lo riceve, un po' come succede con il sorriso. La maggior parte di noi può diventare donatore, la maggior parte di noi almeno una volta nella vita potrebbe aver bisogno di sangue. Ne parleremo a partire dalle 11:50 e in chiusura di trasmissione. Intanto voi iniziate a chiamare e a prenotarvi. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. E torniamo sulla vicenda pugliese che vi abbiamo ricordato in apertura, che rischia di avere una portata molto ampia e nazionale. Buongiorno a Vincenzo Rutigliano, Il Sole 24 Ore Bari. Vincenzo, buongiorno. Eccoci qua. Eccoci. Benvenuto a Cuore Denari e salutiamo anche Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, che sono i nostri ospiti appunto di oggi. Dottor Piano Mortari, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei che ci ascolta. Allora, ricostruiamo un po' questa storia. Nello specifico, Vincenzo Rutigliano, abbiamo capito le accuse mosse alle banche, ma sulla base di quali fatti la Procura di Trani è arrivata ad una decisione tanto importante? A quanto tempo fa risalgono queste vicende? I fatti risalgono ad un periodo di tempo compreso tra il 2005 ed il 2012. I fatti accertati nella ricostruzione del pubblico ministero Michele Ruggero sono fatti oggetto di denunce di sei imprenditori del Nord Varese che hanno appunto segnalato, più correttamente sarebbe lamentato, l'applicazione di tassi definiti usurari perché appunto maggiori rispetto ai limiti previsti. Sono tutti compresi tra il 2005 e il 2012 e la Procura, all'esito come dire, delle indagini e anche dei risultati delle perizie dei consulenti tecnici ai quali il PM si è rivolto, hanno per l'appunto accertato, secondo la ricostruzione dell'accusa, l'esistenza appunto di questo indebito vantaggio che alcune banche, tra le quattro di cui abbiamo più volte parlato, avrebbero maturato rispetto alle sei imprese. Quindi ci puoi ribadire di quanti imprenditori stiamo parlando? Si tratta di sei imprenditori, uno dei quali coinvolto nel rapporto, ovviamente a suo dire, negativo con due banche. C'è un imprenditore, tale Longo, che sostiene di aver subito appunto questo danno e ha denunciato il tutto alla Procura di Trani, sia da Unicredit che da MPS. Complessivamente il vantaggio che la Procura di Trani ritiene in debito per i gruppi, per i quattro gruppi bancari, sfiorerebbe 75.000 euro. Però Vincenzo, devo dire che questa notizia non sta avendo grandi rilevanza sui giornali, ti pare Deborah? Sì, devo dire che effettivamente è stata ricostruita in maniera abbastanza sintetica da tutti, ma senza... L'attenzione è rivolta altrove, all'Expo ad esempio. Al Mose, per esempio, ieri abbiamo visto anche che il sindaco di Venezia, Orsoni, è ritornato alla grande a sedere sulla sua poltrona, ma insomma un po' meno di questa indagine. È un atto dovuto, Vincenzo, che non preoccupa particolarmente i diretti interessati o ci saranno, secondo te, delle conseguenze che al momento sono del tutto imprevedibili? Difficile immaginare la portata e soprattutto come dire, la scansione temporale delle conseguenze, anche perché adesso tutti coloro che hanno ricevuto notificata dalla Guardia di Finanza la conclusione dell'indagine ha tempo, come prescrive il Codice di Procedura Penale, 20 giorni per presentare documenti, memorie, istanze e chiedere di essere ascoltati. Quindi ricostruiranno il loro punto di vista, all'esito del quale il pubblico ministero potrebbe completare la sua parte e quindi poi decidere, come sembra molto probabile, avendo avviato questa indagine così complessa, potrebbe decidere appunto la richiesta di rinvio a giudizio che andrà poi all'esame dell'ulteriore istanza. Quindi, perché il punto è che è coinvolto quasi tutto il sistema bancario italiano e anche la vigilanza. La portata di queste conseguenze, certo. Anche la vigilanza in massima parte, anzi in totale parte, si tratta di ex direttori della vigilanza accusati dalla Procura di Trani di avere concorso in qualche modo sul piano morale agli accadimenti che invece sarebbero stati commessi appunto, materialmente. Di aver chiuso un po' degli occhi quando invece bisognava un po' sbarrarli. Allora, noi ringraziamo Vincenzo Rutigliani, Rutigliano, sorrideva Nicoletta perché abbiamo letto un messaggio. È arrivato un messaggio che ha commentato la scelta dei temi di oggi di Cuore Denari, parleremo infatti nella prima parte, stiamo parlando di questa vicenda e nella seconda dei donatori di sangue. Allora, da una parte ci scrive Franco, parlate di chi dissangua i vampiri e dall'altro chi lo dona. È vero, volevo anche aggiungere poi Vincenzo, sì. Può essere di aiuto. Sei donatore, Vincenzo, tu? Sì. Posso dire il nome dell'associazione? Ah, come certo, perché non sono in competizione. Fratres. 10 anni. Bravo, Vincenzo. Non sono tra i più solerti, ma almeno una volta l'anno. Bravo. Quindi il paragone in qualche modo ci sta. Volevo completare l'aggiornamento del quadro a proposito dell'impatto che queste procure stanno avendo, ricordandovi che il 10 luglio invece il GUP di Trani, Angela Schirali, si occuperà della famosa inchiesta delle agenzie di rating internazionale accusate di manipolazione di mercato, udienza il 10 luglio nel quale si comincerà ad esaminare la richiesta di rinvio a giudizio, perché nelle settimane scorse il GUP aveva ritenuto la sua competenza territoriale e adesso si fa sul serio, nel senso che dopo che ha confermato la competenza territoriale a Trani, bisognerà adesso valutare il merito delle accuse che la Procura ha fatto alle agenzie internazionali Fitch e Standing & Poor's. Standard & Poor's. Senti Vincenzo, ma perché? Certo, no, hai fatto bene. Tra l'altro, prima di salutarti poi andiamo a commentare gli aspetti tecnici magari di questa inchiesta e la questione dei tassi di interesse applicati a mutui, finanziamenti, prestiti, affidamenti e quant'altro. Volevo chiederti, ma perché la Procura di Trani è tanto interessata a queste vicende? Questa piccola procura appunto pugliese così interessata alle vicende finanziarie internazionali, adesso a prescindere dal questione di questi imprenditori, ed è inevitabile, no? Che una procura si interessi dell'economia del posto, ma perché Standard & Poor's, l'Euribor, come mai questo attivismo su questi fronti? Di fatto è la procura che ha maturato sul campo un'esperienza maggiore delle altre ed è anche quella che per prima, e questo spiega la sua competenza, è la prima che ha iscritto nei registri previsti dalla norma il fatto oggetto di denuncia in prevalenza di associazione dei consumatori. Chi per primo iscrive, per primo certo, si occupa, comincia evidentemente a occuparsi, e deve portarsi avanti appunto tutto il lavoro per molto tempo. Grazie a Vincenzo Rutigliano da Bari, buona giornata. Grazie Vincenzo. Voi, buona giornata. Ciao. Allora, prima di sentire Giuseppe Pianomortari, andrei a metterci un po' di ciccia, no? Nella nostra discussione. Assolutamente, andiamo a Palermo e poi a Luca. Però cominciamo con Luca da Monza. Buongiorno. Buongiorno Debra e tutti gli ascoltatori, sì. Debra e Nicoletta anche. Grazie. Niente, io volevo delle delucidazioni, siccome sono un neo imprenditore, figlio di imprenditori da 31 anni, e niente, con l'azienda di mio padre purtroppo nel 2007-2008 c'è stato qualche problemuccio con delle banche che oggi è venuto fuori tramite delle perizie delle società che oggi fanno questi studi apposta sui conti correnti per quanto riguarda questi interessi usurai. Io ho fatto fare questa perizia e è risultato che siamo stati vittima anche noi di interessi usurai per una cifra di 75.000 euro. La banca in questione aveva un credito di 88, però adesso non riusciamo ad uscirne perché io e mia sorella avevamo fatto da fiduciari, da garantisti per dei fidi bancari che usavamo con l'azienda. Poi con questi fattori di Basilea eccetera eccetera, dal 2007 in poi le banche non hanno voluto più dare credito e ci hanno detto di entrare di tutti. Comunque Luca, per sintetizzare, perché altrimenti per la trasmissione brava, per sintetizzare io adesso vorrei sapere cosa posso fare perché il primo avvocato che ci ha seguito in questa storia non ha mai controbattuto questi fattori che intanto per esempio cambiarlo brava, andare a cercarne qualcuno magari esperto su questo terreno. Luca, la chiudo, non per essere maleducata, ma perché abbiamo 10 minuti di tempo, vorrei concentrare tutte le risposte che le servono nelle parole di Giuseppe Pianomortari, che è il nostro esperto, come dire, di questi argomenti questa mattina, anche se Assofin non è che si occupa di tassi usurari, indirettamente lo fa Pianomortari, voi vi occupate prevalentemente di credito al consumo e quindi prestiti alle famiglie e mutui, no? Tutto il tema dei finanziamenti alle famiglie. Ci spiega quando è che un tasso si definisce usurario, un tasso applicato ad un prestito? Perché ci sono delle soglie molto precise. Sì, assolutamente. In base alla normativa che ormai è in vigore da una ventina d'anni, le banche e gli intermediari finanziari ogni trimestre segnalano i tassi medi applicati per le diverse categorie di operazioni. Le segnala una Banca d'Italia, che raccoglie questi dati, e li riunisce, li aggrega e definisce delle tabelle che fornisce poi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che trimestralmente pubblica i tassi medi sulle diverse operazioni, aggiungendo con una formula matematica un quid a questi tassi medi, che è definito in questo modo: si aggiunge il 25% del tasso medio più ulteriori 4 punti percentuali, si ottiene il tasso soglia. Chiunque superi questo tasso soglia di fatto sta facendo un'operazione in usura. E questa insomma è la spiegazione tecnica. A questo punto le chiedo di commentare il caso del nostro ascoltatore da Monza, che sulla base di una perizia ha verificato che i tassi applicati a questo, adesso poi non ho capito se fosse esattamente un prestito o comunque uno scoperto di conto nell'ambito dell'attività imprenditoriale sua e della famiglia, una volta che sulla base di una perizia questo tasso viene scoperto, appunto, come si può rivendicare alla banca la vicenda, come si può rientrare anche in, come dire, in possesso di quanto è stato dato ma non era dovuto? Guardi, innanzitutto bisogna provare che le cose stiano in questo modo, perché come dire, si sente spesso accusare il sistema bancario di applicare condizioni al di sopra delle soglie, ma difficilmente poi questo si verifica nel concreto. Le banche hanno degli uffici conformità, compliance, che fanno delle verifiche molto attente su questi aspetti, per due ragioni. Prima di tutto perché, come è stato ricordato in apertura di trasmissione, ci sono delle sanzioni penali nel caso in cui si superano le soglie, e il secondo forte motivo è che le banche ci tengono molto alla loro reputazione, quindi per motivi reputazionali stanno attentissimi, certo, a questi aspetti. Le accuse di usura sono fortemente infamanti, sono facili da fare, ma spesso poi non trovano riscontro negli accertamenti. Infatti, quindi adesso io il caso di Luca, lui dichiara di aver accertato sulla base di una perizia, e allora può farsi valere tranquillamente in sede giudiziale, ma come dire, sempre che queste cose siano provate. Anche avere, quindi, scusate, io non ho capito, nel dubbio uno va a farsi fare una perizia? Mi spiega? No, la perizia evidentemente ha ritenuto di farsi fare una perizia di parte, bisogna vedere da chi l'ha fatta fare, ecco, eccetera. Altrimenti caso... la perizia la farà fare il giudice nel momento in cui uno contesta questa cosa, e sulla base della perizia il giudice deciderà se effettivamente è stato un caso di applicazione di tasso usurario oppure no. E quindi insomma il tema è che l'ascoltatore se l'è fatta fare una perizia di parte, deve essere controbilanciata in qualche maniera anche da quella del tribunale, quindi comunque se Luca ritiene di aver ragione che questo denaro non era dovuto alla banca, piano mortari, il tema è che comunque è il tribunale a cui si deve rivolgere, non è che la banca gli dice sì, guarda, il tuo perito ha ragione, te li restituisco sbagliata in automatico, giusto? Se è un caso lampante, la banca ammette di aver commesso un errore, evidentemente può anche dargli ragione sulla base di questo. Se viceversa la perizia non è ritenuta una perizia, come dire, soddisfacente, certo, da parte della banca, la banca obietterà delle cose e allora verosimilmente bisogna trovare una serie si finisce in tribunale per mettersi d'accordo. Certo che però per una cifra di questo tipo forse a Luca vale la pena andare avanti, appunto, come un ariete anche come dire, sul terreno giudiziario. C'è anche da dire che, a proposito del perito a cui Luca ha fatto riferimento, che le stesse associazioni dei consumatori spesso raccomandano di non andare a rivolgersi al primo professionista che si trova, no? Perché certo, poi ci se ne... No? Allora, guarda, io ricordavo all'inizio che questa legge esiste da 15-20 anni. Quello che è successo è che negli ultimi 2-3 anni, con l'acuirsi della crisi, l'interpretazione della normativa in materia di usura è stato oggetto evidentemente di una serie di riflessioni ulteriori, diciamo così, dovute alla situazione in cui ci troviamo, come dire, figlia dei tempi, questo cambiamento di orientamento su un'interpretazione consolidata di una normativa che, ripeto, è in vigore ormai da 20 anni. Certo, senta, per andare a fare una verifica, se uno la volesse fare personale, no? Una persona ha un prestito, un finanziamento di qualunque tipo, un mutuo, e magari così, sulla base anche della conversazione che stiamo facendo noi questa mattina, gli viene il dubbio o vuole controllare di sua iniziativa. Se tutto va bene. Esatto, dai. Dove andiamo a prenderle queste tabelle, questi riferimenti, dottor Piano Mortari? Queste tabelle sono pubblicate, si sono tranquillamente ritrovabili presso qualsiasi sportello bancario che è obbligato a esporle, quindi si chiede dove sono pubblicate le tabelle con i tassi medi, i tassi soglia relativi alla disciplina in materia di usura, sono pubblicate sul sito di Banca d'Italia del Ministero dell'Economia, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale trimestralmente. È anche vero che se io le vedessi e poi volessi andare a verificare se sul mio mutuo i tassi di interesse sono usurari o meno, direi che non sarei tanto capace, per cui non è complicatissimo, perché per esempio nella tabella che adesso è in vigore c'è una categoria che si chiama mutui a tasso fisso, un'altra che si chiama mutui a tasso variabile, e bisogna verificare se il tasso applicato, peraltro con riferimento ai mutui, riguarda il momento in cui il mutuo è stato effettuato, quindi vuol dire quello nel quale, il trimestre nel quale il mutuo è stato stipulato. Bisogna verificare se quel tasso è o no dentro la soglia in vigore in quel momento. Benissimo. Allora, andiamo a Treviso. No, volevo andare a Treviso un attimo. No. Roberto, buongiorno. Roberto, lo sentiamo e magari gli rispondiamo dopo. Roberto? Buongiorno. Buongiorno, volevamo salutarla prima di andare a sentire i mercati. Sta con noi? Sì, certo, okay. Grazie. Grazie. Magari possiamo anche sentirlo, che dici? Il caso ce lo portiamo a casa? Dai, portiamoci sì. a casa il caso. Roberto. Ok, no, vabbè. Niente, buongiorno, intanto saluto le signore. Quindi. Grazie. Allora, riguardo il mio caso, io nel 2005 ho fatto un mutuo per l'acquisto di un'abitazione. Poi a distanza di anni, seguendo anche alcune trasmissioni, non so se posso dirlo, mi è venuto, tipo Striscia la Notizia. Santo, pensavo chissà che cosa avesse visto Roberto. No, perché, perché lei non sentiva Salvadanaio. E quindi allora, che cosa ha scoperto? Niente, mi è venuto un po', mi si è accesa una lampadina, ho fatto fare una verifica su quello che era il mio mutuo e ho fatto certificare tramite una perizia, che mi è costata anche un bel po', tramite un'associazione, mi hanno certificato che il mio mutuo aveva un tasso, scusate se sbaglio i termini, un tasso usuraio contrattuale, un qualcosa del genere. Che contrattualmente glielo fissino usurario mi sembra un po' strano. Che... No, infatti ho detto, non so se uso i termini appropriati. Okay. Di conseguenza ho dato mandato a un mio legale, sempre tramite il legale tramite questa associazione, che praticamente abbiamo invitato la banca a un accordo, loro non si sono presentati e ora abbiamo l'udienza in novembre, se ricordo bene. Allora, insomma, Roberto, da Trani qua siamo andati a Treviso, a macchia di leopardo, qualche caso sul territorio c'è, quindi non è solamente Trani Vedi? Che si muove, ma anche da altre parti su iniziativa dei singoli. Cuore e denari. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Canto è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Ci stiamo avvicinando all'estate, al trionfo dell'estate, quindi stiamo pensando alle vacanze, ma ricordiamo che il bisogno di sangue non va in ferie. Il sangue è il farmaco salvavita per eccellenza, il fabbisogno è in costante crescita, una crescita legata all'aumento degli interventi dei servizi che utilizzano sangue e plasma, ad esempio i trapianti e la traumatologia, ma anche l'oncologia e l'assistenza domiciliare. Quindi ricordiamoci di questo, prima di partire, prima di andare in vacanza, che il bisogno di sangue è alto, il fabbisogno noi lo stiamo coprendo, ma bisogna continuare a donare. Insomma, una riflessione che vogliamo fare con voi in chiusura di trasmissione, 800 24 00 24, e intanto vogliamo proprio proporvi di trovare uno slogan che inviti anche chi ancora non lo è, a diventare donatore. Estate, è tempo di partire di donare? A voi la parola, raccoglieremo i vostri contributi nelle pagine di Cuore e Denari. E quindi testimonianze ed esempi positivi nel nostro paese, sappiamo però che ci sono anche situazioni complesse, difficili, all'interno delle quali qualcuno qualche volta un po' si approfitta. Questa è l'immagine che abbiamo del nostro sistema bancario, la crisi ha portato anche a questo. Noi stiamo parlando di usura, abbiamo preso a pretesto la vicenda della Procura di Trani che ha messo sotto inchiesta 62 personaggi particolarmente noti dell'industria bancaria italiana e ci sono anche, peraltro, li possiamo commentare stamattina, gli allarmanti dati sull'impoverimento delle famiglie italiane. Cosa ci abbiamo da due giorni a questa parte che non riusciamo a parlare? Sarà un po' la stanchezza. Devo farci una trasfusione forse. Allora, parlavamo appunto di questi dati sulle famiglie italiane sempre più in difficoltà. Abbiamo il rapporto sulla situazione del paese che è stato diffuso dall'Istat e che quantifica nell'8% le famiglie italiane che vivono al di sotto della soglia della povertà. Sappiamo che una situazione difficile come quella nella quale si sono trovati anche negli ultimi anni molti imprenditori può portare a chiedere credito alle banche e poi essere in difficoltà quando si devono quantificare gli interessi su questi prestiti, affidamenti e non solo. E allora 800 24 00 24 per raccontarci i vostri casi, ancora qualche minuto di tempo con Giuseppe Pianomortari, direttore operativo di Assofin, che ci spiega, anche se il tema è complesso, come si quantificano i tassi di interesse, come si applicano i nostri prestiti ai nostri affidamenti. Il caso di Roberto da Treviso, dottor Pianomortari, che abbiamo sentito prima sul mutuo, vogliamo commentarlo? Mi manca qualche dettaglio rispetto alle cose che ha detto, però volevo dire tre cose. La prima, mi voglio associare al vostro appello a donare il sangue. Io sono un donatore regolare, sono un gruppo RH negativo, quindi posso donare a tutti. Tutti. Ecco. Grazie. Seconda cosa, ci fa molto piacere. Ecco, volevo dire qualcosa sulla questione di Trani, perché è una questione piuttosto tecnica ed è in questi termini. La normativa sull'usura demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia l'emanazione di provvedimenti di normativa secondaria che servono solo ai tasselli fondamentali per l'applicazione della disciplina in materia di usura. Quello che viene contestato da parte della Procura di Trani e al Ministero e a Banca d'Italia è che nell'emanare queste disposizioni, come dire, si sarebbe allontanato dall'interpretazione corretta della normativa primaria. In una delle formule che riguarda le aperture di credito avrebbe definito delle formule per il calcolo del TEG che secondo il Tribunale di Trani non sarebbero in linea con. Le banche e gli intermediari finanziari si sono attenuti scrupolosamente alle disposizioni di Banca d'Italia e del Ministero. Ma mancando la disciplina secondaria, dice lei. Non mancando, essendo secondo la Procura di Trani, la disciplina secondaria non essendo in linea con la lettera o lo spirito della normativa primaria, questo avrebbe comportato quello che ha comportato. Questa è, diciamo, i termini della vicenda sono questi. Vedremo come andrà a finire, però insomma i termini sono questi. Ma da quello che ho capito dell'ascoltatore di Treviso, io credo che sia il caso degli interessi di mora, che è un altro dei casi, diciamo, che in questo momento è trattato anche molto dalle trasmissioni televisive, eccetera, eccetera. Cioè, sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione del gennaio scorso, che peraltro è stata mal interpretata perché non ha detto niente di nuovo, cioè ha ribadito che anche gli interessi di mora e le penali, eccetera, vanno soggettate alla disciplina in materia di usura. Cosa arcinota a tutti? E questa sentenza è del 9 gennaio dello scorso anno, la 350, perfetto, tanto per dare i termini e i riferimenti corretti. Esattamente, e ha detto una cosa che tutti sanno, il problema è come si applicano le soglie agli interessi di mora. C'è una specifica categoria, una specifica soglia per gli interessi di mora diversa rispetto a quelli degli interessi collettivi. Che cos'è un interesse di mora, dottor Piano Mortari? Sta mettendo che io sul mio mutuo dove li vado a vedere? Nell'ambito del contratto c'è una sezione che riguarda interessi di mora e si dice nel caso, adesso lo banalizzo, nel caso in cui ritardi i pagamenti, sulle somme che ritardi verranno applicato un interesse di mora pari al. Quindi che, se pago in ritardo per 3 giorni la rata del mio mutuo, tre giorni, un po' di più magari no, però insomma se il periodo diventa normalmente, insomma, i periodi sono diversi, comunque sia quando ci sono dei ritardi di pagamento si applica l'interesse moratorio, che è una cosa assolutamente legittima prevista dalla normativa. Ora il punto è, e questo ormai si sta consolidando anche nella giurisprudenza più recente, anche dell'arbitro bancario e finanziario, non è che gli interessi di mora vanno sommati agli interessi corrispettivi e la somma dei due non deve superare la soglia dei soli interessi corrispettivi. Un conto sono gli interessi corrispettivi, un conto sono gli interessi di mora e ognuno ha la sua soglia e in questo caso, come dire, se viene fatto correttamente il calcolo, ritengo che nessun operatore abbia violato le soglie. Allora, che situazione, ci fa venire il mal di testa qua, veramente, la situazione è complicata. Detto questo mi rendo conto anche che per gli ascoltatori, qualora questa mattina avessimo fatto venire a qualcuno il sospetto, comunque la così curiosità, dice, vado un po' a vedere che cosa mi capita. Guarda, ci viene voglia di richiudere tutti i documenti del prestito, del mutuo e lasciar stare. Sentiamo cosa è successo a Roberto da Milano. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi Nicoletta, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi. Grazie. Dunque, anche Deborah, allora, però. No, Deborah non gli sta simpatica. No, ma stiamo scherzando, Roberto, siamo due burlone, ci dica. A pari. Dunque, io sono un ex imprenditore italiano, nel senso che ho deciso di mettere in liquidazione volontaria un'azienda commerciale per una serie di motivi e trasferirla altrove. Mi sono imbattuto nella chiusura dei conti correnti, due in particolare, che utilizzavamo da oltre 20 anni con due istituti di credito, proprio nel momento in cui abbiamo messo in liquidazione l'azienda. Abbiamo avuto qualche frizione, abbiamo chiuso i conti e alla fine ci siamo, diciamo, decisi a fare una verifica di come siamo stati trattati in 20 anni. Da chi l'ha fatta fare, Roberto? L'ho fatta fare da un professionista, un consulente molto noto in Italia, che questo evidentemente tenga conto che qui si parla di un'azienda sana, noi non abbiamo avuto problemi diversi. Ci davamo a crediti senza problemi, avevamo tutto quello che ci serviva. La scelta è stata più per strategie che non altro. Dove è andato? In Svizzera, Roberto? Non ha fatto tanta strada. Come l'ho pizzicato. Sorvoliamo, quindi... grazie. Va bene. E quindi, ma insomma, cosa fate? Beh, morale, abbiamo fatto fare delle verifiche appunto sull'andamento dei tassi e abbiamo scoperto che con una banca abbiamo praticamente un credito su 12 anni, perché gli altri non riusciamo ancora ad avere dati certi, di oltre 100.000 euro di tassi applicati non dovuti, e sulla seconda banca di oltre 50.000. Eccolo là. Per una piccola e media impresa, qualche volta cifre come questa, Roberto, significa la stessa sopravvivenza dell'azienda, pagare magari due stipendi. Ecco, Deborah, sono tanti soldi. Anch'io abbiamo allargato lo specchio, perché abbiamo fatto un leasing immobiliare con una società. Roberto, purtroppo devo chiudere, la sua testimonianza è molto bella. Com'è finita la sua storia? La storia è finita che tramite un legale apposta, professionale, professionista del settore, noi stiamo arrivando a una transazione. Quindi voglio dire, raccomando a tutti gli imprenditori di fare queste verifiche, che finché la mucca a latte va bene, quando poi le cose cambiano conviene fare le valutazioni un po' più indebite. Grazie. Se posso un ultimo secondo. Certo. Ecco, lei parlava della Svizzera, io inviterei a fare un giro solo informativo per chiedere come funziona il sistema bancario fuori da questi confini, che è una cosa meravigliosa. Roberto, però è anche un po' un peccato qualche volta, in realtà questo sarebbe un tema che viene affrontato da altre trasmissioni nella nostra radio. È anche un peccato però che le aziende se ne vadano e che vedano questo paese sempre solo come un serbatoio di problemi. Esatto. A proposito, vedi? Come mai ha usato questo termine? Mi è venuto in mente. 30 secondi di tempo a Giuseppe Pianomortari per concludere sul caso di Roberto, se vuole. Qua si parla di tanti soldi, Pianomortari, e non tutti. Qualche volta abbiamo anche la forza e il pelo sullo stomaco per, come dire, avvalerci di una consulenza per andare a fare questi controlli, perché le cifre chiaramente spesso per l'individuo, per la singola persona, famiglia, sono marginali, sono più contenute. Due raccomandazioni ai nostri ascoltatori per avere sotto controllo i tassi applicati al proprio prestito. Ma le raccomandazioni sono banali e semplici: innanzitutto verificare sempre tutta la documentazione e eventualmente farsi aiutare da persone che sappiano, insomma, che conoscono la materia approfonditamente, per esempio se si tratta di consumatori, delle associazioni di consumatori, e suggerisco di rivolgersi a quelle più grandi e affidabili, quelle che sono iscritte nel Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, perché purtroppo anche in quel mondo, come dire, nascono delle iniziative estemporanee che spesso hanno finalità, diciamo, tutt'altro che benevole, e quindi il suggerimento rivolgersi alle più grandi associazioni dei consumatori, con loro aiutarsi a capire se ci sono aspetti che non si comprendono, verificare che tutto sia a posto, e così si vivrà più tranquilli, oppure se si riterrà si prenderanno delle iniziative nei confronti della banca o di intermediazione finanziaria con cui si hanno rapporti. Grazie a Giuseppe Pianomortari per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie buona voi, giornata. Grazie. Cuore e denari. Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno e lo danno per ottenere riconoscenza, ma questo segreto di desiderio guasta i loro toni. E ci sono quelli che hanno poco e danno molto. Sono quelli che credono nella vita e nella generosità della vita, e il loro scrigno non è mai vuoto. Ci sono quelli che danno con gioia e quella gioia è la loro ricompensa. E ci sono quelli che danno con dolore, e questo dolore è il loro battesimo. È bene dare quanto si è richiesti, ma è meglio dare quando, pur non essendo richiesti, si comprendono i bisogni degli altri. Tutto ciò che hai, un giorno o l'altro, sarà dato via. Perciò, da adesso, così che la stagione del dare sia la tua, non quella dei tuoi eredi. Khalil Gibran. E sui versi di questa poesia che dedichiamo a tutti i donatori all'ascolto, ma anche a chi donatore non è, diamo il benvenuto al professor Aldo Zino Caligaris, presidente FIDAS, la Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Buongiorno a voi, Nicoletta e Deborah. Eccoci qua. Di questo appuntamento per la giornata mondiale del donatore di sangue. E infatti che si celebra domani, 14 giugno, in tutto il mondo, è l'undicesima giornata, è voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Professore, il tema per l'edizione di quest'anno è sangue sicuro per salvare le madri. Obiettivo è naturale, no? Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di garantire sempre ovunque, quindi in direzione direi io, in ogni angolo del pianeta, almeno ci piacerebbe, l'accesso al sangue e ai suoi componenti per prevenire le morti di parto per complicazioni ed emorragie che sono ancora drammaticamente frequenti nei paesi in via di sviluppo. Professor Ozino Caligaris. Questo purtroppo è vero. Devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha negli ultimi anni fissato 8 obiettivi come Millennium Project che riguardano proprio la salute globale dei cittadini del mondo. Tra questi 8 obiettivi, 3 sono praticamente sostenuti direttamente attraverso l'utilizzo delle donazioni e quindi l'utilizzo del sangue e dei suoi componenti, e sono la prevenzione proprio della mortalità infantile, delle malattie infettive, pensiamo all'AIDS piuttosto che alla malaria, e ai problemi legati alla maternità, quindi alle morti di parto. Su 105 milioni di donazioni che globalmente ormai avvengono nel nostro pianeta ogni anno, devo dire che una buona parte vanno proprio a sostegno di questo rischio della maternità, quindi delle morti di parto. E in alcuni paesi, questo è emerso in maniera molto chiara in occasione di un side event il 19 di giugno scorso, quando in occasione dell'Assemblea Generale della Salute presso le Nazioni Unite a Ginevra si è parlato della donazione volontaria non remunerata a sostegno dei sistemi sanitari mondiali, è emerso che alcuni paesi come lo Sri Lanka o il Pakistan praticamente raccolgono sangue unicamente per prevenire questo rischio della morte da parto. E queste sembrano cose ormai per noi lontane nel tempo. Invece sono molto attuali in altre parti del mondo. Professore, il 14 di giugno, insomma, tra poco no, inizia ufficialmente l'estate e quindi... Ah, pensavo ti riferissi ai mondiali. Al mio compleanno, perché lì vicino... Che periodo affollato di grandi eventi. Comunque, professore, si stanno avvicinando le vacanze, però quello di cui oggi vogliamo parlare insieme a Deborah, a lei e ai nostri ascoltatori, è sottolineare che il bisogno di sangue non va in ferie, anche se... Nel nostro paese abbiamo raggiunto l'autosufficienza, no? Io mi riferisco però solo al sangue, perché i plasmoderivati li importiamo ancora dall'estero. Distingua molto correttamente, certo. Ci sono però regioni in cui occorre attingere alle scorte delle altre regioni per coprire il fabbisogno. Me lo conferma questo? Certo. Allora, le donazioni sono un atto indispensabile per garantire il buon funzionamento dei sistemi sanitari regionali e quindi nazionale, attraverso un apporto che è quantitativo di numeri, qualitativo di qualità di donazione e in termini di sicurezza, quando parliamo soprattutto di donazione da donatori periodici non remunerati. Questo purtroppo è un obiettivo, quello dell'autosufficienza, che è dinamico. Intanto c'è da dire che in questo momento nel nostro paese, come in tutta Europa e nel mondo, grazie a un miglioramento anche dell'utilizzo del sangue stesso, sta leggermente calando il bisogno trasfusionale, ma non bisogna abbassare la guardia. E di conseguenza le regioni, che non tutte sono a pari livello in Italia per quello che riguarda il conseguimento dell'obiettivo autosufficienza, attingono a una compensazione interna piuttosto che a una compensazione tra regioni, per garantire quello che è un livello essenziale di assistenza. Come la donazione è un gesto volontario e gratuito, totalmente gratuito da parte del donatore, così la terapia trasfusionale come livello essenziale di assistenza deve essere un diritto per il cittadino ammalato che ne ha bisogno e non prevede per legge alcun tipo di compartecipazione di spesa. Questo è un filo, direi, etico che lega proprio la vena e il braccio del donatore alla vena e al braccio del paziente, dove questo valore di gratuità sta sia nel chi lo dona, certo, ma deve essere insito anche in chi lo riceve. E questo appunto viene garantito quando una buona compensazione, una buona programmazione consente anche questo scambio di questo patrimonio etico che è la terapia trasfusionale. Professore, però non so se vorrei proprio parlarne con lei e chiederle conferma. Ogni tanto si sente dire che magari dovendo effettuare un intervento, il paziente si trovi nella condizione di fare una sorta di tam-tam tra familiari e parenti per invitarli a dare il loro contributo recandosi in ospedale a donare. È realtà o sono leggende metropolitane? Perché purtroppo non sono leggende metropolitane e devo dire sono non buone prassi, direi cattive prassi che vengono utilizzate quando la carenza di disponibilità trasfusionale mette in difficoltà il sistema sanitario. Allora, noi abbiamo fortunatamente in Italia una buona organizzazione dove praticamente la partecipazione diretta anche di programmazione delle associazioni di donatori dovrebbe garantire questo flusso a seconda dell'andamento dei bisogni. Sì. Quando questo flusso e questa programmazione non funziona e quindi c'è un problema a livello proprio di strutture regionali di coordinamento, poi le strutture ospedaliere, diciamo, chi eroga le prestazioni sanitarie delle regioni va in crisi e deve comunque garantire poi l'intervento, la terapia, supportare il paziente oncologico, ematologico, e quindi nascono questi appelli che a mio giudizio sono assolutamente scriteriati. Quindi, professore, lei mi sta dicendo, perché abbiamo tra poco la linea al GR, che per una insufficiente sensibilizzazione, ma anche per una scarsa programmazione di alcune regioni, alcuni pazienti si trovano nella condizione di portarsi, tra virgolette, il donatore da casa, un portateco. Ne parliamo, vogliamo chiedere anche agli ascoltatori se si sono trovati in questa situazione, se hanno dovuto chiedere a parenti e amici di andare a donare o se sono stati loro chiamati a farlo. 800 24 00 24, ma vogliamo naturalmente invitare tutti i donatori, perché vogliamo festeggiarli, domani è la loro festa, ma invitarli anche, Deborah, come dicevamo, a inventarsi un po' uno slogan per la donazione di sangue, per sensibilizzare tutti gli altri. Certo. Ottimo, quindi lanciamo il concorsone di Cuore e Denari di oggi, lo slogan per la donazione di sangue. Cuore e denari. Ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Eccoci qua, domani in tutto il mondo si celebra la giornata del donatore di sangue, un'occasione per ringraziare tutti i donatori e per promuovere la cultura del dono. E a proposito di dono, vi abbiamo chiesto di regalarci una frase, uno slogan che racchiuda il valore e l'importanza della donazione, di questo gesto, e che inviti a donare sempre, ma soprattutto in estate, perché abbiamo capito questa mattina che ce n'è particolarmente bisogno. Per cui, mano alla cornetta, 800 24 0024, se preferite scriveteci al 349 238 6666 e il vostro messaggio rimarrà lì bello inciso sulla pagina di Cuore Denari. E intanto ne sono già arrivati parecchi al 349 238 6666. Deborah, ne leggiamo alcuni. Vado a vedere, sì. Marta da Padova dice: io do una goccia a te e tu dai un sorriso a me. Professor Ozzino Caligaris, la coinvolgeremo per dare una valutazione di questi slogan che stanno arrivando. Grazie. Antonio, anche sì? Antonio, perché un bisogno non diventi un'emergenza, dona oggi. Mi piace. Doner Emo, in stampatello, vita, è lo slogan che con cui gioca Vittorio. 800 24 00 24, molti dei donatori che io ho avuto modo di incontrare mi hanno detto che donare è una filosofia di vita, e sinceramente credo che questa frase racchiuda una grande verità, perché per dare si deve avere, no? Nel senso pieno del termine, avere generosità, salute, soprattutto direi consapevolezza di sé, del proprio stile di vita, e in questo senso essere donatori è una filosofia di vita, perché il donatore fa delle scelte che sono funzionali al suo benessere, a garanzia di qualità del dono che va a fare. In questo caso però parliamo di donazione volontaria, gratuita e periodica, ma prima del GR, insieme al professor Ozzino Caligaris, abbiamo parlato di persone che donano su richiesta di amici, parenti, per sopperire ad un bisogno di sangue che si verifica in alcuni ospedali. Allora, professore, in questo caso non si parla più di donazione volontaria, ma di donazione, mi verrebbe da dire, sostitutiva, se il termine è corretto. Giusto, difatti a livello mondiale si parla di family replacement donor, cioè di donatori familiari di rimpiazzo. Replacement significa restituzione, il che di fatto è in contrasto proprio col termine di donazione. Cioè donare significa dare qualcosa gratuitamente, senza avere nulla in cambio. Fare una restituzione vuol dire dare qualche cosa perché in cambio si ottiene qualcosa, cioè si accede a una cura, si accede a un'assistenza, e questo purtroppo non è corretto. C'è da dire, e i numeri ci confortano, che sulle oltre 3.500.000 donazioni che avvengono in Italia, praticamente che sono poi il supporto di quei quasi 9.000 eventi trasfusionali che quotidianamente aiutano i cittadini bisognosi, l'85% provengono da quei donatori che ringraziamo, che sono i donatori periodici, volontari, non remunerati, e che sono quelli che celebriamo con la giornata di domani. Il 15% però di queste donazioni in parte vengono da nuovi donatori, soprattutto giovani, e queste sono ben accette perché servono a garantire quel necessario ricambio generazionale proprio dei donatori stessi. In parte sono questi donatori familiari che in qualche modo non sono più volontari, ma si sentono a donare... un po', certo, tra virgolette, costretti. E quindi professore, la donazione proprio cambia, magari uno si trova quasi costretto a o magari omette, no, dei dettagli del suo stile di vita, perché sa che è importante donare, ma magari anche non si sente di dire di no, professore. Certo, magari non si sente di non soddisfare quella richiesta, o comunque può omettere, ed è fondamentale per la sicurezza trasfusionale, di aver avuto magari, non lo una so, malattia, qualche comportamento, qualche malattia, e quindi questo non va bene, perché il primo punto della sicurezza parte proprio dall'informazione del donatore, dalla consapevolezza volontaria del donatore di compiere un gesto che per lui non è un dovere, ma è un impegno a garantire che una parte del proprio corpo, quindi il suo sangue o un suo componente del sangue, possa essere utile per continuare a dare vita a un'altra persona, in qualità e in sicurezza. Quindi ecco perché è così importante sottolineare questo aspetto della donazione volontaria non remunerata. E allora andiamo subito a raccogliere le testimonianze e gli ascoltatori che si sono candidati oggi con i loro interventi al nostro programma all'800 24 00 24. Sergio da Cuneo, poverino, aspetta da un po', ma siccome insieme ad Antonio sono due cavalieri, le diamo per prima la parola a Lucia da Brescia, che riprende un po' il tema che abbiamo approfondito nella prima parte del nostro programma. Lucia, buongiorno, l'intervento di tutti i nostri un po' congiunti amici, no, nella donazione, benvenuta. Sì, pronto. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Allora, no, questo è successo quando avevo 31 anni, che ho avuto un grosso intervento a Padova, e ho dovuto fornire, e mi ero stupita, no, ma per carità non ho trovato difficoltà a avere persone che portassero, però mi ero stupita perché credevo, non so poi come fosse, perché a Brescia non mi era mai successo di, io pensavo che ci si, cioè che ci fosse questa fornitura, diciamo, della trasfusione che fosse. Ecco, dopo niente, volevo dire che mio marito da giovane ha sempre fatto il donatore, e finché un giorno l'hanno fermato perché aveva la leucemia alta, e insomma alla fine dopo vari esami hanno scoperto che c'è la cronica, che non vuol dire niente, però non ha più potuto donare. E quindi pur volendo donare non può, perché non ha l'idoneità. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Ho un'epatite, perciò non posso. Lucia, e quindi ci racconta, professor Zino Calligaris, che è capitata anche a lei tanti anni fa di dover fare un tam-tam di nei confronti di amici e parenti per dire venite a donare perché c'è bisogno di sangue. E Lucia ci dice che era rimasta abbastanza stupita perché pensava, e giustamente lo faceva, giustamente, che certo, la trasfusione fosse, no, garantita. Eh sì, perché la terapia trasfusionale, come dicevamo prima, è un livello essenziale di assistenza, quindi rientra in quei livelli di salute che lo Stato, quindi il sistema sanitario nazionale e i sistemi sanitari regionali, devono garantire ai cittadini, certo, devono assicurare i cittadini. Allora, tra Antonio e Sergio, Sergio ci aspetta da più tempo. Esatto. Sergio, buongiorno, ci scusi per l'attesa. Nessun problema, buongiorno, saluti a tutti. Volevo solo sottolineare il discorso della paura a volte che hanno alcuni per andare a donare sangue. Io ero uno tra quelli, che giusto per dire una cosa, io che non sono andato a assistere mia moglie che andava a fare il prelievo per che doveva nascere il figlio, sono venuto io piuttosto che lei, no? Certo, dire. E quindi ho proprio una paura del lago molto, molto forte, però la motivazione per aiutare proprio chi ha bisogno del sangue è stata più forte, no? E alla fine sono riuscito a superare questa paura e adesso già da 2 anni abbondanti che faccio 3 donazioni all'anno. Come ha fatto a vincerla, Sergio, questa paura del lago, che è una delle paure, è stata anche sottolineata da un'indagine, vero professor Zino Caligaris, che avete fatto, è una delle paure che allontanano appunto le persone dalla donazione. È la motivazione, perché poi nel frattempo ho anche avuto mio figlio che ha avuto bisogno per un intervento di sangue, no? Sì. Non ci sono stati problemi, c'era tutto un po', però mi sono anche detto se c'era era perché qualcuno lo donava, no? Allora sarà anche un po' questo, mi ha proprio spinto questa grossa motivazione a superare queste paure. Poi anche grossa soddisfazione personale, perché quando vado a donare sangue, oltre al fatto di aver aiutato altri, sono anche molto contento di aver superato questa paura, no? E quindi mi fa sentire bene 2 volte, no? Anche per quello. Perché... Grazie Sergio per questa testimonianza, perché sottolinea un aspetto fondamentale. Il sangue purtroppo non si produce in laboratorio, non si fabbrica con l'industria. L'unico modo per averlo è attraverso questa consapevolezza, questa maturazione, ma soprattutto questa acquisizione del fatto che l'unico modo per poterlo avere è tramite una donazione. Quindi grazie veramente della sua testimonianza, molto bella. E andiamo? Andiamo adesso da Antonio da Bari. Finalmente. Tra l'altro oggi posso dire, Antonio, è Sant'Antonio. Antonio, onomastico. Auguri 2 volte, Antonio. Grazie, gentilissimi. Innanzitutto un saluto a voi in studio, un saluto particolare al professore, un grande ringraziamento a tutti i donatori in ascolto. Mm. La mia esperienza è stata questa. Mio padre, parliamo di qualche anno fa, per un'operazione dedicata al cuore, aneurisma aortico, presso un centro privato convenzionato in Puglia, chiesero espressamente sangue. Sì. Andammo io e mio fratello, che potevamo darlo, e più feci un tantam con tutti gli amici stretti, che erano anche già donatori, i quali non fecero assolutamente nessun problema. L'operazione da quel punto di vista non richiese il sangue. Sì. La cosa curiosa è che mio padre poi ebbe dei problemi a seguito di questa operazione, fu ricoverato presso gli ospedali pubblici e in pratica si scoprì che l'ospedale, diciamo, di eccellenza, diciamo, privato, aveva trattenuto il sangue. Quindi fu fatta la richiesta espressa di riportare il sangue alla banca del sangue per permetterlo poi di poterlo rendere poi disponibile a mio padre, a cui fu fatto poi varie trasfusioni per potersi rimettere in carreggiata, per poter sopravvivere e andare avanti. Quindi posso dire che fu richiesto il sangue, in maniera ovviamente amichevole, certo, non c'è un problema, però questa era, almeno parliamo di 7-8 anni fa, era una consuetudine per queste operazioni particolarmente delicate. Grazie Antonio, grazie mille. Vogliamo far commentare sì, professore. Quindi, dunque, allora, niente di nuovo sotto il sole, sembrerebbe, nuovo, no? Ancora oggi purtroppo accade sentire spesso, soprattutto anche nella capitale d'Italia, di persone che devono provvedere a trovare amici o parenti a fare questo gesto. Allora, intanto c'è da dire una cosa molto importante. Il sangue donato noi non sappiamo a chi va, perché la donazione è anonima, cioè ovviamente c'è un gruppo sanguigno, le unità devono essere validate, devono essere seguiti i controlli e non c'è mai una donazione dedicata, nel senso non è che il sangue donato da un figlio va al padre o il padre, certo, il sangue donato dal padre va al figlio. Va a chi ha bisogno e questo è il principio di quell'eticità del valore del dono gratuito, anonimo, appunto, sì, che deve andare verso chiunque ne possa avere bisogno. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Io ritengo che oggi, in occasione di questa giornata, bisogna vedere le cose in maniera positiva, cioè auspicare appunto che il parco donatori, e quindi di quel grande esercito del 1.800.000 donatori di sangue in Italia, si arricchisca sempre di più per avere disponibilità per tutti di sangue e di emocomponenti, e soprattutto che poi i livelli regionali, soprattutto che oggi sono i detentori della sanità e quindi del diritto della salute dei cittadini, si adoperino affinché veramente compiano delle opere virtuose per poter assicurare sempre questo presidio terapeutico indispensabile, questo che può essere chiamato un farmaco salvavita, senza che nessuno se lo debba reperire attraverso i propri canali. Certo. Insomma. È un po' come dire, mi ricovero in ospedale ma devo portarmi le siringhe piuttosto che il chirurgo, l'antibiotico, certo. Insomma. Abbiamo dei donatori estremamente tecnologici questa mattina, perché Luna chiede, installiamo l'app del donatore, ma noi ce l'abbiamo. E siamo pronti, Deborah, vero che ci racconti un po'? Allora, potenziare la donazione di sangue ci prova una app che sta per applicazione Blood Up, lanciata proprio in occasione della giornata nazionale FIDAS il 6 ottobre dello scorso anno. È molto simpatica, colorata, c'è un piccolo vampiro, sì, è carinissimo, che introduce l'utente nel mondo della donazione, buone prassi del donatore per tenersi in salute, informazioni su come poter donare, ma quello che ci è piaciuto di più è proprio la sezione termometro sacche. L'abbiamo ribattezzata il meteo della donazione, vero Nicoletta? Sì, professore, ci racconta? Dunque, l'app è nata innanzitutto, devo dire, da un bellissimo progetto che ha coinvolto dei giovani professionisti, diciamo, del settore. Hanno vinto un concorso nazionale, tra tantissimi progetti presentati, sostenuto da... praticamente da una grossa realtà, diciamo, nazionale, che ha messo a disposizione un fondo per poter far sì che fosse realizzato questo progetto, questa applicazione che è scaricabile, gratuita, vero? Sì, scaricabile gratuitamente sia su Android, diciamo, con i sistemi Android, che piuttosto che i sistemi iOS, e quindi senza fare pubblicità, diciamo, alle marche, ovviamente. No, ma certo. Quindi scaricabile dagli smartphone soprattutto, in maniera che gli utenti possano innanzitutto avere le informazioni, come andare a donare, dove andare a donare, chi può donare. Ci sono dei giochini anche per avvicinare i giovani alla donazione del sangue. E poi quello che ci è piaciuto, come dicevamo con Deborah, il meteo della donazione, ecco, in quelle regioni in cui c'è bisogno più di sangue, oppure le regioni più virtuose o più fortunate che hanno comunque sangue a disposizione. Ci sono davvero tante domande, professore, sì. Di molti ascoltatori che ci dicono sono idoneo, non sono idoneo, mi hanno sospeso, quando posso riprendere. Non riusciamo a rispondere tutti, ma noi però, ci ritorneremo, però professore, possiamo dire ai nostri ascoltatori di scriverci, metteremo a disposizione naturalmente i nostri esperti per dare delle indicazioni, ma che potete trovare naturalmente sul sito delle principali associazioni. Intanto certo. Andiamo dal dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Che proprio in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue inizia un bellissimo progetto a Roma, si chiama Roma Vintage, la salute dalla testa ai piedi, dei sabato dedicati proprio alla salute, alla prevenzione e allo stile di vita sano. Dottor Gargiulo. È una modalità nuova di contatto con il cittadino, nel caso specifico con i cittadini romani, al parco di Centocelle a via Casilina 712. Ci saranno, si alterneranno sabato dopo sabato una serie di specialisti che parleranno e affronteranno tutti i temi della salute e della prevenzione, soprattutto realmente dalla testa ai piedi. Cominceremo questo sabato parlando di dermatologia, parlando di bellezza e salute, cercando di coniugare, insomma, bene quelli che sono gli aspetti della bellezza con gli aspetti della salute, per far sì che si possa essere, soprattutto rivolta alle donne, belle senza rischiare la propria salute, e agli uomini in forma, garantendo anche un'ottima salute individuale. Questo sabato appunto iniziamo con l'inaugurazione la mattina, poi il pomeriggio ci saranno due talk show, uno alle 17.30 e uno alle 19.30, e in questi talk show i cittadini avranno anche la possibilità di far domande, Certo, un po' come insomma, succede a Cuore Denari, dai. D'altro brava, niente, continua a copiarci. E dottor Gargiulo si ricorda, ma e non è il caso naturalmente di raccomandarlo, della giornata mondiale del donatore di sangue, perché certo, siete in contemporanea. Lo slogan dobbiamo farlo fare a qualcuno però. Dai, abbiamo terminato col dottor Gargiulo, non vorrei averlo brutalmente interrotto. No, dottor Gargiulo rimane con noi per i saluti, ma giustamente intanto... nel giorno di Sant'Antonio è Antonino da Roma che ha lo slogan vincente per oggi. Antonino, rapido, grazie. Sì, io ho lo slogan "Dona il sangue darai la vita", come date voi con le gioiose vostre voci la mattina, una frizzante proprio aria fresca. Che amore, ma che amore Antonino, Antonino, grazie, vede? Buon onomastico. Volevo dire un'altra cosa se posso. Veloce. No, io ho oltre i 65 anni, con la vita che si allunga e migliora, non c'è diciamo una allungamento per poter dare il sangue con tante, diciamo, che stanno bene come me, per esempio, che sono passato. Ottimo, bravo. Professore Ozzino Caligaris, torneremo a parlare di sangue. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie a tutti, buon weekend, a lunedì. Cuore e denari.